الى كل بيت انهدم صوت انكتم وراء حيتي سينيتا راي allora aggiornaci su dove sei. Guarda, vediamo adesso qui all'altezza di via Merulana, la via Lepicana, l'angolo via Le Manzoni, via Lepicana, insomma. E stiamo vedendo, adesso vedo una colonna di fumo su via Lepicana, come se qualcosa avesse preso fuoco, quindi stiamo ritornando per capire di cosa si tratta. E in pratica, niente, il costato è enorme, veramente deborda da ogni lato. E siamo un po' come se la coda del corteo si fosse animata. Adesso veramente sto camminando all'indietro, risalendo il corteo per cercare di capire cosa sta accadendo sul fondo. Magari se mi richiamate tra 10 minuti vi do qualche elemento più chiaro. Perfetto, okay. Perfetto, d'accordo. Grazie mille di nuovo, a tra poco. Bravo, delle cose. Ciao.